cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose. La trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Oggi è l'anniversario della strage di Piazza Fontana. La strage di Piazza Fontana è strage di Stato. Pinelli era innocente ed è stato suicidato, e anche oggi le morti sospette nei commissariati, nelle caserme, nelle carceri, nei CIE, nelle strade per i controlli di polizia, ai posti di blocco, ci dicono che ricordare è capire per il presente. You bet your life it is. You bet your life it is. Oh, honey, you bet your life. It's a pill out the watchword. Just peel out the watchword. Was a good solution. Ciao a tutte, volevamo iniziare con alcuni appuntamenti di collettivi di lavoratrici e lavoratori che stanno facendo delle lotte sul loro posto di lavoro. E già ne abbiamo parlato nelle scorse trasmissioni, quindi vi ricordiamo intanto l'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici delle società in house, che si terrà la prossima settimana, giovedì 20 alle 18 a Garbatella in via Passino 20. E volevamo poi parlarvi invece di un'altra lotta che stanno portando avanti i lavoratori e le lavoratrici di ACI Informatica. I lavoratori e le lavoratrici di ACI Informatica sono impegnati anche nella lotta delle società in house, ma in particolar modo nel loro posto di lavoro stanno portando avanti un'altra lotta. Perché la direzione di ACI Informatica ha deciso di disdire tutti gli accordi integrativi che con le lotte negli ultimi 40 anni i lavoratori e le lavoratrici hanno portato avanti. E appunto la direzione di ACI Informatica ha deciso di disdire tutti gli accordi integrativi. E fino a marzo, infatti, si scadranno i 4 anni che, della piattaforma integrativa, e naturalmente i lavoratori, come in ogni appuntamento che è di rinnovo della piattaforma, portano avanti e chiedono rivendicazioni ulteriori per migliorare la loro condizione. E, È in corso infatti degli ultimi, dal 74-76, in queste lotte dei lavoratori hanno portato a dei risultati molto importanti. Ve ne citiamo alcuni. Secondo il contratto collettivo nazionale di riferimento di Daci Informatica, che sarebbe quello dei metalmeccanici, l'orario di lavoro sarebbe di 40 ore, mentre grazie alle lotte le ore di lavoro che svolgono in Daci Informatica sono 36 e non 40. Un altro esempio può essere quello della maternità facoltativa, che è pagata in azienda in percentuali maggiori rispetto a ciò che è previsto secondo il contratto dei metalmeccanici. Inoltre, cosa importantissima, le assunzioni di tutti i nuovi lavoratori e le lavoratrici avvengono solo con contratto a tempo indeterminato, quindi non vengono accettati e non sono previsti contratti precari. Queste e altre numerose condizioni sono state il frutto delle lotte portate avanti in questi anni dai lavoratori e le lavoratrici di Daci Informatica. E l'azienda quindi punta, approfittando del periodo cosiddetto di crisi, cerca naturalmente di ridimensionare quella che è una lotta in un posto di lavoro dove c'è una coscienza di classe molto forte. La risposta di lavoratrici e dei lavoratori al momento quindi è una piattaforma in cui si chiede il rinnovo di tutti gli accordi integrativi già in essere, e anche portando avanti anche invece richieste ulteriori. Quindi è una lotta che non è solo difensiva, ma di miglioramento delle proprie condizioni. Al momento sono in sciopero alcuni reparti strategici, e anche oggi c'è stata una manifestazione al Torrino in cui hanno partecipato più di 500 tra lavoratori e lavoratrici, ci sono assemblee molto partecipate, e la partecipazione quindi è sempre molto, molto, molto alta. E vi terremo quindi informati su tutte le iniziative a cui potremo partecipare sostenendo questa lotta, che pensiamo possa essere anche una lotta che possa essere da traino per altre vertenze nella città di Roma e non solo. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. Chiaramente vi chiederete perché una trasmissione femminista si occupa di vertenze di lavoro così precise o comunque così specifiche. Il fatto è che sono tutte auto-organizzate, e noi riteniamo che le lotte riescono a portare avanti discorsi che non sono limitati al campo specifico del lavoro, ma riescono ad abbracciare una visione complessiva della società, debbano trovare legami, e infatti noi come Coordinamento Femminista e Lesbica le seguiamo. Thank you. appuntamento che volevamo segnalarvi è un'assemblea che si terrà venerdì 14 alle 18 presso la sede del Comitato di Quartiere dell'Alberone in via Appia Nuova 357. E l'assemblea è indetta dall'Assemblea per l'Autoorganizzazione e dall'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà. L'incontro sarà un incontro assembleare ma anche autoformativo che partirà dal recente accordo sulla produttività che ha visto protagonisti, sindacati, patronato e governo per ridefinire gli attuali rapporti giuridici del lavoro e lo stato dei rapporti di forza nei luoghi di lavoro. Il 16 novembre infatti Confindustria e le altre organizzazioni patronali con UIL e UGL hanno sottoscritto il documento sulle linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia. Questo accordo prevede tutta una serie di condizioni che vanno a peggiorare la condizione di lavoratrici e lavoratori e restringendo anche la libertà di movimento di lavoratrici e lavoratori. Vi volevamo parlare di alcuni punti che poi naturalmente verranno sviscerati nel corso dell'assemblea. Il tentativo è quello di legare il salario sempre di più alla produzione, quindi citando proprio una parte dell'accordo, il contratto nazionale dovrà prevedere degli aumenti salariali però entro i limiti fissati dai principi vigenti e coerenti con le tendenze generali dell'economia, del mercato del lavoro, del raffronto competitivo internazionale e gli andamenti specifici del settore. E gli aumenti quindi vengono legati anche nella contrattazione di secondo livello vengono legati appunto all'aumento della produttività. Pesante per le donne, cioè tutti questi e tutti questi cambiamenti che il neoliberismo sta portando e sta ridefinendo infatti i rapporti di forza tra le classi sociali sono particolarmente pesanti per le donne che vengono assolutamente ricacciate nei ruoli e vengono ridefiniti pesantemente non soltanto i ruoli lavorativi quindi ma anche quelli sociali. E tutte queste vertenze hanno una cospicua parte di base femminile e le donne sono particolarmente attive e c'è anche una alta consapevolezza delle dinamiche a cui vanno incontro. L'aspetto molto negativo di questo accordo è che si presta molta attenzione all'aspetto ideologico del rapporto capitale-lavoro, prevedendo una funzione culturale delle rappresentanze sindacali e richiedendo interventi sul sistema anche dell'istruzione che riconducano il ruolo della formazione didattica a vantaggio della diffusione sin da piccoli, quindi della cultura dell'impresa. I told you so. No, I don't need a man. coordinamenta, quindi parteciperemo venerdì 14 alle 18 all'assemblea all'Alberone, e proprio prendendo spunto da questa assemblea abbiamo cominciato a cercare, insomma, notizie e che riguardassero poi nel posto di lavoro e non solo il ruolo della donna nel... Ci è balzata agli occhi una notizia che riporta il Corriere della Sera. È una proposta di un costituzionalista tedesco. Il costituzionalista propone di far votare le madri e i padri anche per i loro figli, sostenendo che il problema che sta alla base dell'Europa dei debiti è il mancato patto tra generazioni e la troppa bassa natalità. E prevede anche, accanto alla riforma elettorale, incentivi alla famiglia nel suo complesso, cioè favorire l'assunzione di chi ha figli, contare nel calcolo delle pensioni anche i periodi di maternità e di paternità, insomma una ricetta che secondo lui costringerebbe la classe politica a confrontarsi con le generazioni future e dunque articolare proposte politiche, insomma, a lungo termine invece che emergenziali. E invece a questo punto noi facciamo una serie di osservazioni molto spicciole ma importanti. Il patto generazionale di fatto c'è sempre stato, perché non è mai venuto meno neanche in questa stagione neoliberista, e passa attraverso la famiglia, il concetto, il ruolo e il principio della famiglia. Poi la bassa natalità non è dovuta alle donne che non fanno figli o a chissà quale altre amenità, è dovuta al cambiamento del modello produttivo, per cui le braccia dei figli non sono più una risorsa per la famiglia, anzi sono un onere. Diciamo che noi dovremmo, proprio nel nostro essere, nel nostro lottare come femministe, cercare di avere sempre una visione e una lettura materialista, perché di fatto sono le condizioni socio-economiche che determinano quelle culturali, i costumi, la morale, e non viceversa. Tutti quelli che auspicano un cambiamento culturale rispetto a qualcosa che di solito infatti viene portato avanti per le donne, per il rapporto con le diversità in genere, per il razzismo e compagnia. Il cambiamento culturale è figlio del cambiamento socio-economico, del cambiamento del modello produttivo, e non viceversa. Un'altra notizia che volevamo darvi è che il 13 dicembre riaprirà il processo contro Pinar Selek. Sono 14 anni infatti che lo Stato turco la perseguita, e giovedì prossimo sarà riaperto il processo contro di lei da parte della Corte Penale di Istanbul. Per ricordarvi brevemente chi è Pinar Selek, è una ricercatrice, è stata, diciamo, bersaglio dello Stato turco a causa di una ricerca sociologica condotta da Pinar nel 1996 che era relativa alle condizioni del conflitto armato tra la Turchia e il Kurdistan. È stata condotta in detenzione preventiva e la ricerca le è stata sequestrata. È stata pesantemente torturata per farle dire i nomi delle persone curde che aveva intervistato. Siccome quindi si è rifiutata di dare alle autorità i nomi delle sue fonti, è stata arrestata. Mentre già era in carcere, il suo nome poi è stato collegato ad un'esplosione avvenuta nel bazar delle spezie di Istanbul. ed è stata accusata di aver preso parte a questa presunta cospirazione. E dopo 2 anni e mezzo Pinar è stata rilasciata, però appunto il percorso giudiziario prosegue e non è stata ancora assolta. Volevamo quindi dare voce a questa lotta perché appunto, come abbiamo detto, il 13 dicembre si riaprirà il processo le compagne turche saranno in piazza davanti al tribunale di Istanbul in solidarietà con Pinar e porteranno la loro rabbia e determinazione contro la riduzione al silenzio delle femministe in tutto il mondo, come scrivono anche appunto in un comunicato che le compagne stanno facendo girare per sostenere la lotta per la libertà di Pinar. Don't you know? And ain't nobody ever gonna love you the way I try to do. Who take all your pain and your heart and tear. And if you need me, you know. Sul blog delle Dumbles, Feminis Furlanis Libertaris, che sono delle compagne di Udine, il loro blog è dumbles.noblogs.org, abbiamo trovato una notizia presto detta. Una madre con la figlia provano a rubare in un supermercato di Campoforbido qualche scatoletta di tonno, 2 tazzine, un paio di mutande, il tutto per un valore di 30 euro. La figlia, scappando, dà una spinta alla cassiera che la rincorre. Le due vengono poi catturate dai carabinieri che le inseguono. C'è un processo per rapina. La PM, una donna, riteniamo che questo sia doveroso sottolinearlo, chiede una condanna di anni 3 di reclusione, praticamente un anno per ogni 10 euro di merce trafugata. Il collegio giudicante condanna la madre a un anno e 300 euro di multa e la figlia ha patteggiato una pena di 10 mesi e 20 giorni e risarcito la somma di 15 euro. Allora, questa non è una notizia, è un orrore. È un orrore perché si invocano 3 anni di carcere per qualche scatoletta di tonno e poche cose. Quindi ci rendiamo conto ogni giorno di più che se la giustizia non è altro che lo specchio di un rapporto di forza tra le classi, la misura diventata, la forbice si è aperta molto di più e c'è quella che si può chiamare la guerra ai poveri e la guerra ai più umili, neanche definirli così, non saprei definirle e definirli così. In questo caso si tratta di 2 donne. Perché poi le donne, come le diversità, come le migranti e i migranti, sono l'anello più debole della catena. Non è un caso che si tratti di 2 donne, anche perché poi le donne sentono per tutta una serie di condizionamenti culturali sulle loro spalle l'onere del mantenimento della famiglia e quindi sono portate a appropriarsi, a rubare, tra virgolette, come dice questo Stato, delle cose per mangiare. Allora, l'altro orrore poi non è solo questa della guerra ai poveri, che poi è una delle caratteristiche del neoliberismo. L'altro orrore è che una o uno che lavora come commessa a un supermercato, con uno straccio di lavoro che, con cui guadagnerà pochissimo, starà in piedi o seduta ore senza neanche poter andare in bagno se non c'è un cambio, però deve diventare vigilante e guardia antitaccheggio, e quindi deve essere una povera che fa la guerra ai poveri e alle povere. Le Dumbless finiscono con un prendiamo da loro, finiscono con un verso di D'André. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Sottrarsi. Il grimaldello che il neoliberismo usa per rompere la solidarietà delle oppresse e degli oppressi, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle donne e delle donne, è il mito dell'individualismo. Ognuna per sé e Dio per tutte. Ognuna pensi alla sua promozione sociale e alla carriera, e l'impegno politico dovrebbe tradursi in un appello alla convivenza civile, una petizione di principio senza conseguenze se non quella di demandare la soluzione dei problemi ad un'improbabile buona volontà personale. È una società completamente permeata dal controllo. La sorveglianza invade, come mai in passato, i comportamenti di consumo, le scelte individuali sulla sessualità e sulla vita in genere. Accanto ai metodi e alle figure tradizionali che assolvono questo compito, se ne usano anche altri, e sono chiamati ad assolvere questa funzione altri attori e attrici. Uno dei metodi più usati è quello di creare problemi per poi offrire le soluzioni. Si enfatizza un problema quando non lo si inventa completamente, con lo scopo di creare una reazione dei cittadini e delle cittadine che sia di avallo alla soluzione già precostituita. Uno per tutti è il problema della cosiddetta sicurezza. Altro metodo molto utilizzato è quello di deviare l'attenzione dai temi più importanti attraverso il diluvio di informazioni insignificanti e fuorvianti. Poi c'è la tecnica della gradualità, per cui passo passo il neoliberismo si è imposto attraverso le leggi che introducevano la precarietà, la flessibilità, salari che non garantiscono più una vita dignitosa, tutti cambiamenti che, presentandoli separati gli uni dagli altri, è stato possibile fare accettare. Poi c'è la tecnica del pretesto, prendere spunto da questo o da quell'avvenimento che colpisce l'opinione pubblica per veicolare scelte reazionarie e limitative delle libertà personali. Un altro tassello è infine quello dell'autocolpevolizzazione del cittadino e della cittadina. Il disastro ambientale deve rendersi conto che è colpa sua, perché consuma troppo, e però deve consumare, perché usa la macchina, che però deve comprare, e via dicendo. E la tendenza è quella di far diventare ognuna e ognuno guardiana e guardiano di se stessa e delatrice e delatore nei confronti delle altre e degli altri. L'unico tipo di rapporto agibile con questo sistema è sottrarsi a qualunque forma di controllo, a qualunque titolo, rifiutare qualunque forma di collaborazione, neanche per motivi che possono sembrare nobili, smascherare le strumentalizzazioni, ricordarsi sempre che le leggi sanciscono un rapporto di forza, sono fatte dai più forti e destinate ai più deboli, non chiedere mai nulla, ma prendere quello che ci spetta. Ciao. Like a perfect fool. Adesso invece volevamo parlarvi dell'incontro nazionale separato che come coordinamenta femminista e lesbica abbiamo organizzato per sabato 15 dicembre nello spazio sociale occupato ex 51 a Valle Aurelia in via Bacciarini 12. E l'incontro è sulla memoria collettiva e si intitola infatti Memoria collettiva, memoria femminista, e diciamo che nasce dal una serie di rapporti che abbiamo instaurato in questi mesi con altre compagne di collettivi, certo, in tutta Italia, e con cui anche a giugno avevamo già fatto un incontro sulla violenza maschile. E anche tra di noi, visto che ci sono compagne di diverse età e quindi generazioni, c'è stato anche tra di noi uno scambio di informazioni, di racconti e di memoria che ha arricchito il nostro percorso e ci ha fatto crescere, ci ha portato anche a una consapevolezza maggiore, e quindi ci sembrava importante organizzare un incontro di questo tipo proprio per fare in modo che passino determinati contenuti che spesso dalle generazioni più giovani sono visti come lontani, cioè spesso anche le compagne universitarie o delle scuole superiori che sono venute anche in trasmissione ci raccontavano come il femminismo viene visto come qualcosa di lontano, superato, e quindi vorremmo invece riattualizzare la lotta femminista che secondo noi è importante, è ancora necessaria. Sì, infatti ci siamo rese conto che è come se si fosse interrotto il filo, come se la memoria delle lotte passate e soprattutto i percorsi di liberazione che sono stati instaurati dal femminismo fossero stati dimenticati e non fossero stati trasmessi. Ci siamo chieste che cosa è successo e come mai è avvenuto questo, anche perché secondo noi l'usura del tempo non c'è entrava affatto col fatto che tutta una serie di eventi non fossero stati tramandati e fossero stati rimossi dalla memoria collettiva. Questo succede, cioè questo meccanismo ci è apparso reale in generale anche nei riguardi del movimento allargato e in particolare nei riguardi del movimento femminista, no? Cioè, per cui le cause e i processi che hanno portato alla dimenticanza e all'oblio di tutta una serie di avvenimenti non sono casuali, ma sono stati perseguiti attraverso una falsificazione dell'esperienza storica e anche attraverso la produzione di ricordi sostitutivi, oppure attraverso una rimodellizzazione di quei ricordi, oppure attraverso una codificazione fuorviante, fraudolenta. Comunque è passato un sapere diverso, è passata la falsificazione degli eventi, è passata la rimozione. Addirittura gli elementi di trasgressione che facevano parte del movimento femminista e le istanze di liberazione sono state nominate, ma per farle esistere come elementi di legittimazione di quello che poi è successo. Rispetto a questa, il percorso del femminismo cosiddetto femminismo socialdemocratico, per esempio, ha una grande responsabilità, perché ha svolto una vera e propria controrivoluzione sul terreno dei linguaggi, cioè i media, le reti di comunicazione sociale hanno operato proprio una rimodellizzazione di tutta la memoria del femminismo, e non solo del femminismo, ma del femminismo, perché questo è l'ambito che ci interessa. E siccome l'esperienza passata condiziona quella futura, e quindi è un modello e comunque un riferimento e comunque lancia tutta una serie di messaggi a cui chi ha il testimone fa riferimento, si configura come una parte molto importante della riproduzione delle lotte politiche. Sarà suddiviso in due momenti. Nella sabato mattina ci saranno una serie di interventi sulla trasmissione proprio della memoria. L'introduzione verrà fatta da una compagna della coordinamenta e ha come titolo questa introduzione: "Mi ricordo che ai miei tempi, memoria femminista da tramandare". E ci sarà poi intervento di Elisabetta per ricordare, trasformare e uscire da qui. Beh, io praticamente porto la mia esperienza degli anni 70 e la mia lettura di tutto il percorso che dagli anni 70 ad ora ho attraversato. È una lettura che cerca di spiegare anche perché siamo arrivate qui. Poi vedremo. Ci sarà poi l'intervento di una compagna di Trieste, del coordinamento Donne Trieste, Gianni Sardo. Il suo intervento ha come titolo Tu da che parte stai? Parteciperanno poi il collettivo delle 2511 con appunto un intervento che ha come titolo Interrogarsi camminando, la nostra pratica, alcune domande sul femminismo. Ci saranno poi le compagne della rete della REFE, praticamente relazioni femministe, significa relazioni femministe, e sono le compagne di Milano, Torino e Genova che hanno un percorso appunto di relazioni che stanno portando avanti adesso da diverso tempo. È una costruzione di cui ci faranno partecipi e che unisce esperienza passata e costruzione di lotte presenti. Ci saranno poi le compagne di Medea. Non lo so se riusciranno a venire perché sono in forse, però insomma speriamo di vederle, dato che poi ci legano anche le lotte della Val di Susa, che fanno parte anche quelle di tutta una serie di sperimentazioni di lotte che sembra che siano nate adesso, secondo quello che ci racconta questo sistema. Invece la difesa della terra e della propria vita fa parte di tutte le lotte di liberazione. Sempre nella prima parte della giornata, quindi poi ci saranno anche le compagne di Treviso, di Rho, di Milano, quindi insomma sarà una mattinata ricca, e noi abbiamo previsto poi alla fine degli interventi comunque un dibattito aperto, un cerchio in cui confrontarci su tutti questi argomenti, tutte le tematiche, tutte le sollecitazioni sì. Che verranno dalle compagne. Abbiamo diviso la giornata in queste due parti, trasmissione della memoria e confronto femminista fra generazioni, proprio per una ragione. Perché la prima parte vediamo che cosa ci propongono in effetti poi le compagne, che cosa questo titolo, che suggestioni ha aperto questo titolo in loro. Proprio perché le modalità di trasmissione della memoria poi ci porteranno nel pomeriggio a quello che noi vorremmo fosse un confronto fra femministe di varie generazioni che praticamente partecipano alla loro esperienza. E vediamo, passo la parola a Elena che aveva cominciato a parlare. Nel pomeriggio quindi ci saranno altre compagne che già ci hanno inviato i loro interventi e parteciperanno anche le studentesse delle scuole superiori, quindi sarà sicuramente un momento importante per raccontare quello che è stato e quello che è ora e quello che potranno essere le lotte femministe. Anche perché ci sono posizioni, cioè diciamo che la memoria femminista non è una memoria che ha una pretesa esaustiva, non edifica monumenti, ma vive nella dialettica e si alimenta della dialettica, quindi non teme la pluralità dei linguaggi, non teme il loro proliferare, sebbene semmai teme l'assenza dei vari linguaggi e soprattutto teme l'interpretazione socialdemocratica e borghese, perché riduce questa interpretazione, riduce tutto nell'alveo di questa società e della sua conservazione, mentre dimentica che il femminismo non può abbandonare mai la lotta di liberazione, che è di fatto la capacità di investire tutti gli aspetti della vita, dal lavoro all'eros, dai sogni ai linguaggi quotidiani, dalla politica all'arte. E per questo che interverranno realtà molto diverse tra di loro. Cioè realtà che per esempio auspicano da realtà come Armonia di Bologna, che auspica le società, i matri clan, no? E a chi invece come il gruppo di lavoro femminista vuole una lettura materialista di questa società, cerca una lettura materialista di questa società e cerca quelli che sono i meccanismi con cui questa società ci opprime e cerca di scardinarli, perché ritiene che sia l'unico meccanismo per uscirne, no? Il tentativo è stato infatti quello di condannare all'oblio tutti quegli aspetti invece dell'esperienza storica, sociale del femminismo, che invece erano legati a un'ipotesi di superamento della società patriarcale, ma anche della società borghese. E quello quindi che vorremmo fare è mettere a valore quell'esperienza che è stata accumulata negli anni 60, negli anni 70, in anni di lotte, e farci anche noi stesse luogo di trasmissione di questo sapere. Nell'ambito del pomeriggio, cioè nel confronto femminista fra generazioni, ci sarà l'intervento, sarà con noi Daniela Pellegrini, che è una femminista storica e presenta il suo libro Una donna di troppo. Una donna di troppo, storia di una vita politica singolare. È un intervento che racconta di fatto, è un libro e sarà un intervento che racconterà la sua esperienza, è un libro che attraversa la sua esperienza di femminista di fatto dagli anni 60 fino agli anni 90 più o meno. Praticamente sarà un riferimento per il confronto pomeridiano, proprio perché la sua storia, come quella di altre che parteciperanno al pomeriggio, sarà di aiuto o comunque di confronto per il cerchio di discussione in cui parteciperanno le studentesse delle scuole medie e superiori, giovani lavoratrici, giovani migranti, tutte porteranno un'esperienza diversa, porteranno alla discussione quello che è il loro sentire e quello che loro pensano, credono, vogliono, sognano, sperano che sia il femminismo. In every time, Try to pretend you didn't call me just 'cause I was on your mind. Too soon for you to say out loud, but I know you love me, and though we don't say it, already shows. You already know, but I'll sing it again. I love you, baby. Il fatto che la memoria femminista sia stata rimodellata secondo gli interessi che diciamo questo sistema ha e aveva, per esempio, è eclatante nella dimenticanza totale che si ha di tutta una serie di gruppi collettivi che hanno praticato hanno praticato e hanno tentato un'uscita, cioè percorsi di uscita da questa società, ed anche azioni violente nei confronti, azioni violente, azioni armate, come ad esempio dei gruppi tedeschi, ma anche dei gruppi italiani di cui si è dimenticata, cioè passata sotto silenzio assolutamente la memoria. Oppure il fatto che la riappropriazione del proprio corpo, la potenza che è scaturita dalla sensazione, dalla reale possibilità che le donne hanno sentito di avere negli anni 70 di poter decidere di se stesse e della propria vita, sia stata reinglobata in tutta una serie di norme, a cominciare da quelle che hanno creato i consultori di Stato, per finire anche all'aborto legale, alla famosa 194, che è un nuovo normalizzare le nostre vite, e ci si è dimenticate completamente, sembra che ci sia, cioè che si sia persa completamente la carica eversiva e liberatrice che era quella dell'aborto libero, della riconquista del proprio corpo, della propria autonomia e autodeterminazione. E quindi addirittura adesso sembra, c'è stato tempo fa una discussione molto illuminante tra di noi, tra compagne, per cui le compagne della generazione di mezzo, diciamo quelle che adesso hanno 32-33 anni, rispetto a certe osservazioni sulle lotte per i consultori, per la difesa dei consultori, che di fatto in cui di fatto noi difendiamo una struttura che ci vuole ancora normate e ci vuole ricondurre in certi canoni, e loro hanno risposto in maniera stupefatta, tipo: ma noi siamo nate con i consultori, perché prima com'era? Allora, questo prima non riguarda solo prima, certo, io sono una generazione di passaggio e quindi prima era veramente diverso, cioè praticamente c'era una normatività delle vite molto soffocante, totalizzante. Però noi abbiamo vissuto un periodo felice in cui abbiamo capito che le cose ci possiamo riappropriare della nostra vita. E questa sensazione vorremmo riuscire a trasmetterla a chi non l'ha vissuta e dire che si può fare. Vi ricordiamo quindi l'incontro nazionale separato, che si terrà quindi sabato 15 dicembre nello spazio sociale occupato Ex 51. L'incontro sulla memoria collettiva, memoria femminista, e quello che insomma abbiamo cercato di raccontarvi oggi e quello che vorremmo che poi possa diventare questo incontro, che sia un momento prezioso quindi di condivisione, di consapevolezza, di analisi, che poi possa anche arricchire i singoli percorsi dei collettivi, i singoli percorsi anche personali, di nuove idee anche pratiche, e che possa anche significare la riappropriazione di una cultura anche conflittuale. E vi ribadiamo gli orari. Allora, è sabato 15, dalle 10 di mattina alle 13:30 ci sarà la prima parte sulla trasmissione della memoria, poi pranzeremo tutte insieme, poi dalle 15 alle 19 ci sarà la seconda parte sul confronto femminista tra generazioni. Vi diciamo un attimo come ci si può arrivare all'ex 51 a via Bacciarini. È abbastanza facile, perché dalla stazione Termini basta prendere la metro A, scendere alla fermata di Valle Aurelia, prendere la direzione Baldo degli Ubaldi, al primo semaforo a destra, via di Valle Aurelia, la terza a sinistra è via Bacciarini. Sono 5 minuti a piedi per chi viene da fuori Roma. Adesso volevamo salutarvi e lasciarvi i nostri indirizzi, i nostri recapiti, l'email che è coordinamenta@autistiche.org, coordinamenta con due O, e il nostro blog che è www.coordinamenta.noblogs.org. Vi aspettiamo sabato, vi aspettiamo in tante, discuteremo più che potremo, mangeremo tante cose buone, staremo insieme, dai che ce la possiamo fare. Ciao! Ciao! Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really this. This is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword. tied with my hands, I could be here. There must have paid her a nice price, she's putting on us to be loved. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. Never was a cornflake girl. Thought that was a good solution.